a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Buonasera a chi è in ascolto, siamo di nuovo qui insieme su Radio Asilo con una nuova puntata di Il Panda Yogico. Questa sera continueremo a trattare il tema dei Clash, già iniziato nella puntata precedente quando trattammo appunto del Clash relativo all'egoismo, all'ego. E i Clash, come dicevamo, sono quelle problematiche, quegli ostacoli che incontriamo lungo il cammino yogico che ci impediscono di arrivare alla nostra meta, di compiere il nostro viaggio. Questa sera ne tratteremo anche leggendo direttamente dalle pagine degli Yoga Sutra di Patanjali, e da lì partiremo per insomma fare due chiacchiere in maniera più, diciamo, informale, diciamo così. Allora, i Klesha sono, come dicevamo, sono cinque, e sono: il primo, avidia, definito come l'ignoranza o non conoscenza che porta all'errata visione. Il secondo è asmita, quello di cui trattammo la volta precedente, quindi l'egoismo. Il terzo è raga, il desiderio, l'attrazione basata sul ricordo del piacere. C'è poi dvesha, l'avversione, la repulsione, il ricordo del dolore, il timore di soffrire. E l'ultimo è abhinivesha, la partecipazione spasmodica all'esistenza, l'attaccamento alla vita, la paura di morire. Nei versi dello Yoga Sutra, la parte iniziale dedicata a questo argomento dice quanto vi riportiamo adesso. Le cause di afflizione sono, come abbiamo già detto, l'ignoranza, l'egoismo, il desiderio, l'avversione e l'attaccamento alla vita. È dall'ignoranza che si originano anche le altre. Esse possono essere dormienti, attenuate, alternate o pienamente attive. L'ignoranza consiste nello scambiare il non atma impermanente, impuro, penoso, per atma eterno, puro, gioioso. Nell'egoismo invece è come se vi fosse l'identificazione del veggente con la cognizione e l'attrazione deriva dal ricordo del piacere, mentre la repulsione dalla memoria del dolore. L'attaccamento alla vita, inoltre, è così istintivo che domina perfino il saggio. Queste sono le parole appunto riportate da Patanjali. E cominciamo dicendo qualcosina sull'ignoranza, sull'avidia. Ignoranza qui è da interpretarsi nel senso di non avere, diciamo, la consapevolezza o la capacità di inquadrare nella maniera corretta, esatta, l'atma, sarebbe cioè la nostra parte spirituale, quello che può essere anche definito il seme divino che è dentro di noi. Insomma, noi abbiamo questa nostra parte spirituale che, appunto, come abbiamo detto altre volte, è una parte che ha del divino, tant'è che si ricollega a ciò che dicemmo del saluto classico yogico, che è Namaste, che significa appunto saluto il divino che è in te. Questo riconoscere questa presenza divina, questa essenza divina dentro di noi, spesso porta appunto a questa forma di ignoranza, a scambiare ciò che è spirituale per ciò che non lo è, perché ciò che è spirituale è qualcosa che, diciamo, è staccato dal nostro normale modo di rapportarci con il mondo, con chi ci circonda, con tutto ciò che è intorno a noi. E questa forma di ignoranza porta al maturare degli altri quattro clash e quindi porta alla formazione, al potere assunto, come diciamo l'altra volta, dal proprio ego e quindi dal cadere nell'egoismo, dalla identificazione di della nostra personalità costruita da tutte le sovrastrutture che abbiamo in parte, diciamo, sviluppato da soli e in parte acquisito fin da bambini dalla società nella quale siamo immersi, dalla famiglia anche nella quale siamo. Successivamente l'altro clash che scaturisce da avidia, dall'ignoranza, è il desiderio, l'attrazione basata sul ricordo del piacere. Noi, e lo riteniamo in parte anche giustamente una condizione normale e naturale, cerchiamo sempre e solo il piacere nelle cose che facciamo. Siamo attratti appunto dalla presunta gioia, dalle presunte azioni e presunte emozioni positive, e cerchiamo appunto in maniera spasmodica di rincorrere anche un piacere che probabilmente il più delle volte si ricollega a un piacere già provato in passato, il più delle volte si ricollega ad un piacere provato in età infantile, del quale forse non abbiamo neanche pienamente memoria, e quindi noi in certo senso schiavi di questa latente sensazione di ricerca di un piacere perduto, continuiamo affannosamente a ricercare questa emozione, questa situazione che in realtà non riconosciamo e non conosciamo davvero bene, e quindi arriviamo al clash successivo, che è l'avversione, la repulsione, al contrario, per il ricordo del dolore e per non soffrire. E questo è un passaggio fondamentale nel cammino yogico, perché non dobbiamo avere paura della sofferenza, del dolore, perché la sofferenza e il dolore sono strumenti di crescita. Lo stesso Buddha diceva, a proposito della sofferenza, che la sofferenza è una nobile verità e che solo dal suo riconoscimento può mettersi in moto il processo di guarigione di guarigione e trasformazione attraverso l'applicazione del metodo yogico. Quindi la sofferenza, e qui mi viene in questo momento un collegamento anche con San Francesco, mi viene in mente in maniera estemporanea il cantico di San Francesco, nel quale anche la sofferenza, lui lo chiamava fratello o sorella, nel quale appunto accoglieva e cercava tutto, perché appunto la sofferenza fa parte di noi, fa parte del nostro Atman, della nostra entità spirituale, e fa parte del nostro cammino. Non possiamo continuare a vivere in conflitto con una parte di noi e con le nostre emozioni, quindi non dobbiamo avere timore di soffrire, ma dobbiamo scendere anche nella sofferenza e cercare di capire poi ciò che è all'origine realmente di questa sofferenza, come anche per il piacere. Dovremmo riuscire appunto a capire quali sono i meccanismi mentali che si attivano e che determinano le nostre azioni. Ultimo klesha è abhinivesha, che sarebbe, come dicevamo, la partecipazione spasmodica all'esistenza, l'attaccamento alla vita, la paura di morire. È quanto di più naturale e di ritenuto, diciamo, normale c'è in questo. Tutti noi siamo attaccati alla vita, nessuno vuole o vorrebbe morire, ma purtroppo è un dato di fatto che accadrà, inevitabilmente accadrà per tutti. E non possiamo continuare la nostra esistenza nell'illusione di essere eterni, o nell'illusione, come mi viene da dire, il mondo occidentale, soprattutto appunto il mondo nel quale viviamo noi in questi ultimi decenni, ritiene di aver sconfitto la morte in tante sue forme. E forse proprio adesso, pensandoci in questo momento, tutta anche la questione del virus, ci potrebbero essere una infinità di collegamenti anche riferiti a questa nostra presunzione di essere superiori al resto della natura, al resto degli esseri viventi, di essere un gradino sopra tutto il resto del mondo, di essere potenti con la nostra tecnologia, la nostra capacità tecnica. Ma così non è, e come così non era mille anni fa, quando hanno avuto origine gli scritti dai quali stiamo partendo per la nostra chiacchierata di stasera. Così lo è oggi. Non siamo immortali e non siamo fatti per essere immortali, o almeno non siamo immortali nella nostra forma fisica. Perché in realtà saremmo immortali nella nostra forma spirituale. Il problema, ed è un gran problema, è averne consapevolezza. Perché riuscire, diciamo, ad avere consapevolezza della propria, appunto, parte spirituale, riuscire ad avere una tale consapevolezza da vederla nelle varie esistenze, è un qualcosa che sarebbe, diciamo, accessibile a tutti, ma è riservato a quei pochi che riescono con la pratica continua, con l'applicazione fisica e mentale, a compiere questo percorso, a studiare, ad applicarsi, a praticare determinate tecniche di movimenti fisici, di respirazione, di concentrazione, di meditazione. Tutto ciò è alla portata di tutti, ma è alla portata di pochi, nel senso che è molto complicato riuscire a far combaciare la vita frenetica che svolgiamo quotidianamente un po' tutti con questa parte che sarebbe poi in realtà la vera ragione di vita dell'essere umano, perché non v'è senso nel perderci giorno per giorno presso a, diciamo, allucinazioni e a problematiche varie che poi, se ci andiamo a riflettere, ricadono sempre su problemi pratici, tutto sommato secondari, problemi che possono essere economici, problemi di diciamo, ritenuti affronti al proprio ego, ecco, ritornando al clash dell'egoismo. Certi problemi economici sono duri da sopportare e da affrontare, però se non riusciamo un attimo a staccare la spina del nostro cervello e ad attaccarla nella presa giusta, che è quella della consapevolezza di un mondo diverso, è difficile riuscire ad avere un poco di serenità. continueremo con questo discorso fra qualche minuto, dopo che avrete ascoltato un brano, chiamiamolo brano, anche se sono, diciamo, in musica, sono suoni che vi ho proposto già la volta scorsa, e vi ripropongo di ascoltarlo cercando di rilassarvi e concentrarvi sul respiro. Buon ascolto e ci riascoltiamo fra qualche minuto. torniamo in diretta e dopo avervi lasciato qualche minuto, spero, di positivo ascolto e di rilassamento, riaffrontiamo il problema dei clash, degli ostacoli lungo il cammino yogico. Allora, come si superano questi ostacoli? Cosa bisogna fare per purificarsi, per liberarsi dai clash? In tutte le scritture ciò che viene indicato è la necessità di avere una mente ferma, salda e consapevole. Sono indicate come vie per superare queste problematiche la meditazione, la concentrazione. Come dice sempre Patanjali negli Yoga Sutra, la mente si purifica coltivando l'attitudine verso concetti come l'amicizia, la compassione e la gioia, ma anche praticando l'indifferenza verso il piacere, il dolore, la virtù e il vizio, o altresì concentrandola sull'emissione e sull'arresto del respiro. Quindi in queste poche righe già vediamo che ci sono indicate vie che possono essere viste come due vie diverse, ma che poi si incrociano tra loro. Una è quella della consapevolezza mentale, l'altra è quella della concentrazione sul respiro. La mente ha necessità di liberarsi di tutte le negatività, di superare gli ostacoli, di riuscire, diciamo, a distruggere quelle catene che attraverso di lei tengono imprigionato tutto il nostro essere. Gli ostacoli che rendono difficile questa liberazione vengono chiamati citta vikshepa e sono 9, e ve li cito uno per uno. Allora, il primo è viadi, malattia, alterazione, degenerazione dell'equilibrio fisico. Stiana, apatia, debolezza, indifferenza dello spirito. Samascia, dubbio, indecisione, condizione di titubanza della mente. Pramada, negligenza, disattenzione, disinteresse per i propri doveri. Alascia, indolenza, torpore, assopimento. Avirati, intemperanza sensuale, quando cioè la mente è dominata solo da obiettivi sensoriali. Branti, darshana, nozione erronea o illusione. Alabda bhumikatva, impossibilità di raggiungere il samadhi, e anavasti tattva, instabilità nel perdurare della concentrazione. Questi ulteriori ostacoli rendono difficile ciò che stiamo teorizzando, cioè la capacità di staccare la mente e il corpo dalle afflizioni e dalle problematiche e riuscire a liberarsi. E sempre in aiuto ci viene però ancora lo scritto, e ci viene sempre Patanjali che ci ricorda o ci sottolinea che per dissipare i pensieri negativi serve la pensiera costante nella mente degli opposti. I pensieri iniqui come l'avidità, l'avarizia, l'ira, sia generati da se stessi sia indotti da altri, essendo causati da dolore moderato intenso, danno luogo a permanente inconsapevolezza. Occorre quindi la presenza costante nella mente degli opposti pensieri positivi. La pratica costante della non violenza dà luogo all'abrogazione dell'ostilità. Quando si è fermamente stabiliti nella veracità, satya, il requisito fondamentale del risultato è l'azione. Nel momento in cui si è risolutamente stabiliti nell'astensione dal furto, si ha il manifestarsi di tutti i talenti. Quando si è saldamente stabiliti nella castità, si acquisisce energia. La salda non possessività dona la conoscenza del come e perché dell'esistenza. Ci tengo a sottolineare, per chi può essersi impressionato, che per castità non si intende, come poteva essere un tempo, castità sessuale o quantomeno esclusivamente sessuale, ma si intende il tentativo di non disperdere energie per azioni incoerenti e a vuoto. Insomma, per riassumere brevemente, prima di lasciarvi al brano finale, c'è bisogno di farsi forza e capire che nella nostra mente, nel nostro corpo, quindi attraverso la meditazione, attraverso il respiro, attraverso la pratica degli asana, c'è tutto ciò che ci può portare ad una vita più tranquilla, serena e rilassata.